Abbiamo un'agenda molto ricca, in realtà abbiamo tante compagne in studio perché si avvicina l'8 marzo, ci sono tante iniziative che si stanno organizzando in giro per l'Italia. Noi oggi ci concentriamo su quello che succede nella nostra città a Roma e alle campagne che poi stanno organizzando. Parleremo di Mai Più Clandestine fra un po', però adesso abbiamo in studio Claudia, ciao. Che tra l'altro ti chiami come me, quindi era facile. Ciao, allora, come procedono le cose? Si va? Bene, sì, si va. È previsto un corteo l'8 marzo che parte da Piazza dei Condottieri, dovrebbe passare per attraversare le strade del Pigneto, passare per San Lorenzo e arrivare davanti al Policlinico. Il corteo parte alle 15. Come è stato? Immagino che la scelta del Policlinico non sia stata casuale, diciamo, no. come punta di arrivo, neanche la partenza. Ricordiamo alle nostre ascoltatrici, forse molte lo sanno già, che a Piazza dei Condottieri c'è il consultorio, appunto, di Piazza dei Condottieri, cosiddetto tutto insieme, il consultorio di Piazza dei Condottieri, dove tra l'altro ci sono anche tante compagne che abbiamo sentito diverse volte da questi microfoni. C'è Dalia, comunque hanno rimesso in piedi l'Assemblea delle Donne, un consultorio abbastanza, diciamo, in osservazione, curato. Sì, diciamo che in questo periodo abbiamo deciso di partire da Piazza dei Condottieri perché c'è un problema di consultori, nel senso che molti a Roma stanno chiudendo. Questo di Piazza dei Condottieri è uno dei pochi rimasti ancora aperti. Arrivare al Policlinico ha un senso perché, appunto, in realtà la chiamata dell'8 marzo è in risposta al problema della Spagna, della presentazione della proposta di legge che nega il diritto all'aborto. Però noi abbiamo ritenuto che in realtà, se questo progetto di legge passasse, potrebbe rappresentare un precedente, nel senso che aprirebbe la strada alla possibilità di far approvare poi delle leggi in tutta Europa che di fatto negano il diritto all'aborto. In Italia ci siamo concentrate sulla 194 e ci siamo rese conto, diciamo, tendenzialmente che la 194 è una buona legge, ma presenta il problema degli obiettori di coscienza. Quindi, rispetto a questo, il problema è che una donna che decide di abortire o vuole andare all'ospedale per richiedere la pillola del giorno dopo, spesso e volentieri si trova di fronte a ospedali dove sono tutti obiettori di coscienza, e quindi di fatto deve fare il giro di 100 ospedali prima di trovare la pillola. Quindi, tra l'altro, da poco è stato, da quando è stato permesso la possibilità di utilizzare la pillola abortiva, il Policlinico da quel momento in poi ha prescritto solo 5 pillole abortive. Quindi il motivo per cui, ricordiamo, la RU486, sì, la RU486. Quindi quello è il senso di andare sotto al Policlinico. In realtà l'ospedale vale l'altro, vista la situazione. Vista, insomma, la situazione, è vero che anche il Policlinico ha una storia, forse che è più vicina, diciamo, alla lotta delle donne, perché io non c'ero, perché fortunatamente pure io sono nata l'anno della legge, tra l'altro esattamente due mesi dopo, cioè stesso giorno, due mesi dopo dell'approvazione della 194. Per questo è un compleanno che ricordo, tra l'altro, che ricordiamo 22 maggio 1978, così sapete anche quanti sono i miei anni adesso. E però al Policlinico nel movimento femminista, comunque, le battaglie negli anni 70 e tutta una serie di cose, quando aprirono il repartino, insomma, si trovavano, voi siete molto più giovani di me, 87. Esatto, quindi, però, per ricordare che ha anche un valore di memoria in qualche modo storica, un modo di riallacciarsi a tante cose, cioè c'ha tanti significati, di questo siamo contenti. Magari, appunto, non sono tutti neanche conosciuti, perché è chiaro che il Policlinico è uno degli ospedali più grandi, comunque, della capitale, però c'è anche una storia che ricorda, insomma, le lotte, le battaglie femministe, tra l'altro proprio sull'aborto, neanche a dire a caso, sempre su quello. E quindi ricordiamo, tra l'altro, tra le altre cose, prima che poi ci scordiamo, che proprio per questo corteo domani alle 18 a Comunia c'è un'assemblea. Sì, l'assemblea cittadina che discuterà, appunto, le ultime cose, i preparativi rispetto all'8 marzo, che è un corteo misto, e ce lo siamo immaginato come un corteo colorato, quindi insomma assolutamente partecipato e aperto a tutte e a tutti. E poi il primo marzo a Comunia, visto che ci sto, lo dico, certo. Ci sta il Carnevale Degenerato con delle incursioni degeneranti, con ospiti Lilith e Giulia Nania, più o meno dalle 22. Venite. Bene. E tra le altre cose, vabbè, vogliamo dirlo che comunque lo slogan è in qualche modo appunto vicino a quella che è la campagna spagnola. Io decido, a me piace coniugarlo in tutti, sì, e due i versi. Abbiamo declinato un po' rispetto a un'autodeterminazione dei corpi, nel senso che in un periodo dove c'è una svolta autoritaria, ci siamo ragionate di come effettivamente poi i governi puntino in primis a un controllo sui corpi, quindi non solo il corpo delle donne ma di tutti i soggetti oppressi, quindi migranti, LGBT, quindi insomma si tratta di un percorso molto molto aperto. Ok, va benissimo, noi ti ringraziamo di averci appunto raccontato questa cosa, diamo tutti l'appuntamento. Innanzitutto l'assemblea di domani alle 18 a Comunia, che per chi non lo sa sta in via dello Scalo di San Lorenzo 33. E in piazza l'8 marzo. Noi ricordiamo che in realtà saremmo qua in diretta radiofonica, per cui vi chiameremo per sapere come va la piazza e che cosa succede nella piazza. Grazie. Buona lotta. Ciao. Ciao.